and it's a hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. Better run, run, run, run. There's a man, son, with a gun. And it's a hard rain gonna come. Blast you down before you turn to stone. Ovviamente se scherza, è roba piratesca. Pirate Radio, Port Royal. Questo era Sporumon. E cominciamo così come sempre con i compleanni. Da pochi giorni ne sono passati almeno tre. E partiamo con il primo tributo. Poi ci andremo ad ascoltare Lady Flavia. E dopo l'intervista a Flavia con la presentazione della mia città, andremo a sentire gli spezzoni che mi hanno mandato direttamente da casa. Tanti auguri, Tonino Ribelle. If Jah is by my side, I won't hide. No, I won't hide. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom. If Jah is standing by my side, then why should I be afraid? The pestilence that crawled by night. I won't hide. No, I won't hide. Boom, boom, boom, this a junior. Boom, boom, boom, this a junior. Boom, boom, boom, this a junior. Boom, boom, boom. If Jah standing by my side, then why should I be afraid of a pestilence that crawled by night? If Jah is standing by my side, then why should I be afraid of a pestilence that crawled by night? Your best you try to harm I and I, aiming to kill, but I vabbè, diciamo che il cantato live non, forse non è il caso di farlo per ritardo, The gates of hell can never prevail. From I know Jah, he never fail. What you think I'm gonna do, keep up now? No, no, not go bow. My foes attack and I just smile. They don't seem to understand my style. My confidence is so high, high. In a Baba Jana, Jah is standing by my side. Then why should I be afraid of a pestilence that crawled by night? If Jah is standing by my side, then why should I be afraid of a pestilence that crawled by night? Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom. Of the Most High, Most High, Most High. Jah is standing by my side. And then why should I be afraid of a pestilence that crawled by night? If Jah is standing by my side, then why should I be afraid of a pestilence? Tony direbbe, è nato il 15 gennaio del 1962, una carriera che è troppo lunga da riassumere in uno due tune, e quindi andiamo avanti così. Tanti auguri Tonino a destra, tanti auguri Tonino a sinistra, questo 45 della mia box. Che pezzone, rifatto da tutti, per carità, però veramente pezzone. Bella a tutte e a tutti i massicci, gli amici e le amiche all'ascolto. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Fire Bomb Babylon in session. But we love the vibe, the food and the culture. Whoa, can't you see the beauty of this country? Me never know a serious thing until me reach a foreign. So what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars now run. So what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars now run. Now with the money in your pocket and a God in your heart, grow the people, what more you want? Reggae music, I play a reggae artist, a chant. I saw me born, I'm in a transplant. What a nice place to live. Sweet jam down, the only problem is dollars not wrong. So what a nice place to live. Sweet jam down, the only problem is dollars not wrong. A man will live on a banana boat and him a gone over broad, because him say every way better than he have. But when him touch certain country, see this system a fraud, him a fi run back. Jam down and give it its reward. What a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not wrong. Say what a sweet place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not wrong. Yes, I'm a man, yes, I'm a come from. Yes, I'm a liver, yes, I'm a intent for tan. Regardless of the economical condition, you must admit this is a glorious land. Say what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not run. Say what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not run. So help me pick up Jamaica, the land of food and water. The system might not proper. We love the food, the vibes and the culture. Whoa, can't you see the beauty of this country? Me never know say that it a serious thing until me reach in a foreign. Oh, what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not run. Oh, what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not run. As a Jamaican, my argument is whoever said them clever, them for stop the promises. And just mass production in all the parishes, and jam down will progress like all the countries. What a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not run. Jamaica and Jamaicans are extremely great. Appreciate love by people, some say appreciate. Well, since we know that, make we concentrate and how we make the dollars start circulate. And what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not run. Say what a nice place we live. Sweet jam down, the only problem is dollars not run. From money in your pocket and jar in your heart. Crowd of people. E dopo aver fatto gli auguri a Tony Rebel sul prossimo compleanno, che è sempre del 15 di gennaio, di qualche anno prima, 1956, Winston Foster, abbandonato dai genitori, cresciuto nella Maxfield Children's Home e poi nell'orfanotrofio cattolico Alpha Boys School di Kingston, che insomma tutti conoscete, e non è che ci ha studiato solo lui o c'è rimasto solo lui. La particolarità che sto parlando di un giamaicano albino, che quindi pensate un po' quello che può aver sofferto da bambino. Nel 1981, dopo essere diventato in tutta la Giamaica, è stato il primo artista dancehall a firmare un contratto con una major americana, e parliamo della Columbia Records. Primo album è del 1982 ed è Mr. Yellowman, da cui ci andiamo a sentire questo pezzo, e quindi tanti auguri a Yellow Man. And now for the final story in today's news. History was made in the Resident Magistrate's Court recently when Jamaica's number one DJ, the internationally acclaimed Yellow Man, appeared before the court in defense of certain rights. Yellow Man, in his unique style, presented his own case, and this is what he had to say. I beg your pardon, this is what Yellow Man had to sing. Go the sense in me is I read it a fi bone. Whoa, it a fi bone. Chalice, get it the front of station, the ganja pipe a bun. Smoke from the country, make the police I run. The police get vexed and clean out in gun. Me take one jaw in crank up in gun. In smell the sense in me in ya, him ask me fi some. It a fi bone. Whoa, it a fi bone. Hear him though, hear him though. He just lean up in gun in a the corner. He say, pass me the telephone channel. And when he take one jar, he start it to laugh. He take another jar, start it to cough. He take a next jar, he start it to talk. He get serious, he take one puff. He say, what is this? I say, the rap ganja. What them call it? Marijuana. What it name? Sensei Mania. He say, wrap up a Jaffi commissioner. Why you fi wrap up a Jaffi inspector? Why you fi wrap up a Jaffi the lawyer? Why you fi wrap up a Jaffi the doctor? I know the doctor, the lawyer, start confess. Say that the Cali weed is harmless. It a fi bone. Whoa, it a fi bone. Oomba da da da da. It a fi bone. Whoa, it a fi bone. Yeah, yeah, yeah, yeah. The doctor say, Lord, the Cali weed, it a fi share. Light up the chalice in a downtown square. The doctor, the judge, the lawyer were dear. Under me foot was a crate of fear. Me no care. Yellow man bun the ganja anywhere. Hear me no star because cocaine will blow your brain. But the sense in me is irate. Cocaine will blow your brain. Sense in me is irate. The front of station the ganja pipe a bun. Smoke from the ganja make the Babylon I run. Babylon get next and go clean out in gun. Me take one jar in crank up in gun. When he smell the sense in me, he marks me face on me taffy bone. Whoa, it a fi bone. Because instead of the a Kingston a ton gun man, me rather go a country cut down woodland and build up a ganja plantation in which I will make a million. Because if I'm right, I can't be wrong. You play this one on the radio station. It's a people. Questo appunto era un estratto, Sensi Mia, dal primo EP, dal primo LP, anzi, perché all'epoca ancora si facevano gli LP con la Columbia Records. L'anno dopo, poi Yellowman ha tirato fuori quest'altra traccia qua, non so se la conoscete. Will you see if this rhythm you have a patch? Yellowman made it. And you say after me don't made it, me set it. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Say if you have a paper, you must have a pen. And if you have a start, you must have a end. Say 5 plus 5, it equal to 10. And if you have both, you put them in a pen. And if you have a rooster, you must have a hen. Now, zungo, zungo, go, zungo, zen. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Jump for happiness and jump for joy. You know fi call yellow man no boy. Lady and they used to take fi tire. Brave guy lord him call him child. You know fi call yellow man no boy. You know fi call John John no boy. You know fi take iron knife fi boy. Zungo zungo go zungo zeng. Watch it. Zungo zungo go zungo zeng. Catch it. Zungo zungo go zungo zeng. Ka 00119. Cause yellow man make you feel so fine. Me chat on me lyric, me chat them in a rhyme. Me not eat like me full up a rhyme. Cause yellow man him not commit no crime. Cause zungo zungo go zungo zeng. Zungo zungo go zungo zeng. Hey, go shum pen, go shum shum pen. Hey, go shumpeng, go shumpeng. Say if you have a start, you must have a end. Say if you have a paper, you pass me the pen. But tell your yellow man I'm too much girlfriend. Can't no for the matter, but me not have no girlfriend. You a idiot, boy, me have a 110. Say all of them, them have yellow children. All of them, them have yellow children. Some live a Kingston, and don't have me a pen. No for them a ask me, oh, me have enough girlfriend. Two arguments, I have enough arguments, Lord. Arguments, I have enough arguments. Me enter in the house of Parliament. Prime Minister and his wife have to keep silent. A true yellow man, a chat intelligent. They put me in the court, the judge say you're innocent. Two arguments, I have enough arguments. Sanja should have been my girlfriend, hey. Lady Anne should have been my girlfriend. Make a zungo, zungo, go zungo zen, hey. You know fi jump fi happy or joy. You know fi call yellow man no boy. Nobody take John Jeff fi toy. Me brother law them call him you right. Zungo, zungo, go zungo zen. Watch it, zungo, zungo, go zungo zen. You leg of violence, you smoke I shen. You deal with violence, you go down silent. But tell your yellow man come fi tell them again. You live a Kingston or you live a me. Bella agli amici Kawa Sound e a tutti gli amici e le amiche collegate sulla chat Reggae Mania. Tutti all'ascolto anche il mercoledì. Bless up yourself. Zungo zungo go zungo zen. Jumpy happy miss a jumpy joy. You know fi take yellow man fi boy. You know fi take yellow man fi time. Zungo zungo go zungo zen. Watch it. Zungo zungo go zungo zen. Shumpeng, go shu shu shumpeng. But tell your yellow voice it sound like FM. The other rest of voice sound like AM. But tell your yellow man come fi rock them again. You could a live a Kingston, maybe a me a pen car. Zungo zungo go zungo zen, hey. Zungo zungo go zungo zen, hey. No fi call yellow man no boy. Torniamo al 1966, esattamente il 17 gennaio, Rexon Rolston, Fernando Gordon, per fortuna che poi si è trovato anche un nome d'arte, noto musicista dancehall giamaicano, fino agli 80 ai primi 90 tra i più famosi al mondo, e dovrebbe essere stato, se non sbaglio, uno tra i primi a vincere un Grammy come miglior album reggae nel 92 e poi nel 93. È notoriamente popolare per due canzoni, la prima è questa. Missa Shabaran, 17 gennaio 66, eh? Rock wine. Ding a ling a ling, sing. Band silent swing, sing. DJ ears stuck up in the ear boom rhythm, sing. Ding a ling a ling, sing. Gold bell a ring, sing. Knife and fork a fine for dumpling. Booyaka booyaka for Shabba ranking. Shabba rocks disappear it have another man chin cho. Them are the done to the biz, we have the key. Put the dan to the key and turn him in a donkey. Yes, them are the done to the biz, we have the key. Put the dan to the key and turn him in a donkey. Who they think they are? Yes, they can't allow me. I am the general in the DJ army. Me, who not only I am cross on the tea, and sit on the gal them tickle fancy, and anywhere we go, gal gone crazy. Listen, ding a ling a ling, school bell a ring, knife and fork a fine for dumpling. Booyaka booyaka for Shabba ranking disappear it here of another man chincho. Them a the dan to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn him in a donkey. Them a the dan to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn him in a donkey. You see, reggae dance all it comprise of wine. You see, now come your phone, girl, wine your body. You see, if you can wine, you hold your man and in Paris. You see, bad beer style when you see your mate. You see, you that try dress but your mate not ready. You see, your mate look like she a Bugs Bunny. You see, she a cartoon and she no red. Hi, I am Martina Ferroni, Paralympic champion, e anch'io supporto Port Royal Pirate Radio. Let's go! Jamaican girls them, and the American girls them, and the English girls them, what about Canadian girls them, all the Japanese girls them, the Caribbean girls them. You should hear little children sing, where them sing? Ding-a-ling-a-ling, sing. Dance a lick, swing, sing. DJ is skunk up in the beer boom rhythm, sing. Ding-a-ling-a-ling, sing. School bell in ring, sing. Knife can't for some of ranking, some of runs, the personality of DJ Chinchu. Them are the done to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn them in a donkey. Yes, them are the done to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn them in a donkey. You can't mix quantity with quality. A man of quality, yes, him of ability. With me strong mind and under that carry me. I get the willpower from God Almighty. Many hand call, but the chosen is me. What is for Caesar could never be for me. They came on me, now they came on me. I am the general in the DJ army. With that all the I and cross all the T. Cash registering and they make love money. Ting-a-ling-a-ling, sing, dance all in swing. Sing, DJ sing, A stand up and if your boom redeem. Ting-a-ling-a-ling, sing, school bell ring. I find fuck and fight for dumpling. Booyaka, for some of ranking. Some of ranks, the personality of DJ Chinchu. Them are the done to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn them in a donkey. Yes, them are the done to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn them in a donkey. You see, reggae dance all the compliance of wine. You see, can come your phone and wine your body. Jump up, up, up and shake your body. Muggle by your mate, cause your mate not ready. Mate look skinny like macaroni. From your mere skin, it just call her Teddy. If a girl ready, then a girl not ready. Don't want no girl with no balloon belly. E anche qua ancora tanti auguri Shabba Ranks, ci andiamo a sentire l'altro pezzo per cui è universalmente noto. Così piano piano ci avviciniamo al momento dell'intervista, alla presentazione della mia città. Morbidi morbidi, sweet and bouncy, Mr. Loma, Shabba Ranks. E Fire from Babylon, restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes I, buona sesso, wicked. Now it's summer run. In you buckle fun, I'm going to make you explode. Just like a bun, every hour, every minute, and every second, them call me Miss I Love her, man, them call me Miss I Love her. Champion lover, I know he's up tonight. Experience this I love yes. Find this I love and make you walk on my foot. And in that this I love then I'm gonna live on foot. As I love you from your toe come straight to you. If you have a miss I love a man, if you have a miss I love a miss I love a man, if you have a miss I love a I'm going to tell you when if you have a miss I love a man. It's when me love the girls and depending on Caroline to be like the one under man. If you have a miss I love a man, if you have a miss I love a E allora salutiamo e facciamo ancora gli auguri a tutti con un po' di ritardo in realtà. Tony Rebel, Yellowman, Shabba Ranks, tutti nati in questi giorni che sicuramente saranno all'ascolto. In Giamaica a quest'ora fanno il brunch con Pirate Radio e Port Royal, lo sappiamo tutti. È il momento dell'intervista. Lady Flavia ci presenta il suo ultimo lavoro e ce l'andiamo a sentire. Ricominciamo con le interviste di Port Royal tutti i mercoledì, fai a Bombabilon in session dalle 21 alle 23. Andiamo a intervistare con piacere ed onore stasera una vera queen del reggae italiano, altro che Lady Flavia. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Pirate Radio di Port Royal, grazie mille dell'invito da parte di Fire Upon Babylon e anche a te Otello. Disponibile sulle migliori piattaforme digitali La Mia Città, nuovo singolo di Lady Flavia che sancisce la collaborazione con Red Gold Green Label. La cantante romana tra i fondatori della Villa da Posse torna con un brano nato dall'esigenza di cambiamento. È un brano scritto diversi anni fa e anche se ad oggi il testo risulta essere ancora più attuale in questo momento di disagio e mutamento interiore, cioè voglia di evadere ancora più di prima e non solo con la fantasia, ma se non possiamo andarcene fisicamente come spesso accade cerchiamo di farlo attraverso le emozioni che la musica è in grado di regalarci. La canzone è composta in collaborazione con il produttore Shiny D ed eseguita in studio dalla Madhouse Band. È caratterizzata dal sound sky rocksteady, rhythm and blues giamaicano, unita ad un approccio cantautorale di Lady Flavia. Il singolo esce accompagnato da un videoclip girato tra Roma ed il Brasile dal fotografo e regista Giorgio Palmera, che trovate anche su YouTube. Andiamo quindi a fare la prima domanda a Flavia e poi ci andiamo a sentire il brano La Mia Città. Abbiamo detto quindi è un brano che è rimasto nel cassetto un po' di tempo nonostante la sua attualità, giusto? Allora sì, questo nuovo singolo, La Mia Città, sancisce un po' la collaborazione con la Red Gold Green Label e l'ho prodotto insieme a Shiny D, David, che ha curato diversi aspetti della produzione del singolo, dai cori anche alla strumentale interamente e il mix e lui anche il tastierista. La band è la Madhouse Band che mi ha aiutato appunto nella realizzazione della registrazione in studio e il pezzo sì era un po' lì nel cassetto perché tutto questo lavoro in realtà è stato fatto prima del Covid, quindi poi dopo ci siamo chiusi diciamo in qualche modo, non siamo più potuti andare avanti con il lavoro, quindi ecco adesso che ci siamo scongelati tutti quanti eravamo pronti diciamo per pubblicarlo insomma e per andare avanti, quindi ecco questo sicuramente era il momento, avevamo le cose lì calde proprio ed eravamo pronti a farle uscire. Slegate le mani, taglio via, lacci e legami, destinazione sogno, di volar via ho bisogno. up a Lady Flavia, Villa da Posse, Port Royal, Red Gold Green e ovviamente Pirate Radio e il mitico Tello da Shine D. Dai forte, bless. Ora voglio slegate le mani, taglio via lacci e legami, destinazione sogno, di volar via ho bisogno. E sai com'è, non ti confondere, e vigile, e a bocca aperti cammina, vedi se riesci a trovare un modo per star bene. È già giorno, mi alzo e corro nella mia città, non un attimo di tregua, volo via di qua, non ho modo di pensare a ciò che più mi va, non ho spazio e tempo per sentirmi libera. Ora è notte, mi alzo e corro nella tua città, ora c'è la banda e la festa inizia qua, ti assicuro è proprio questo ciò che più mi va, voglio ritmo e reggae per sentirmi libera. Ciò che più mi va, non ho spazio e tempo per sentirmi libera. Ora è notte, mi alzo e corro nella tua città, ora c'è la banda e la festa inizia qua, ti assicuro è proprio questo ciò che più mi va, voglio il tuo reggae per sentirmi libera. Questa era La mia città di Lady Flavia, un nuovo singolo di Lady Flavia che trovate su tutte le piattaforme. Appunto è un brano che pesca a piene mani nella tradizione ska rocksteady, che ricorda molto le influenze del disco solista precedente di Lady Flavia, Stereo. Pensi quindi di aver trovato in questo il tuo stile, il tuo sound? Il pezzo è un po' ovviamente ska rocksteady e sicuramente questo è un genere che a me piace molto. Hai ragione, ricorda un po' Stereo e quella produzione lì sicuramente. Di base quello che quello a cui tengo, diciamo, nelle mie produzioni, almeno in questo momento, e che mi piace come sonorità, è appunto registrare con la band in studio, insomma, piuttosto che trovare diciamo solamente una base MIDI, anche se ovviamente a volte va benissimo anche la base MIDI, dipende insomma dai lavori, però in questo caso, essendo volendo fare un lavoro insomma insieme alla band, insieme a Shiny D ovviamente, quindi volendo anche una base originale per il mio pezzo, ecco, come anche fu per Stereo, questo sicuramente accomuna entrambi i lavori. Per il resto sì, sicuramente il genere è quello, diciamo, però penso sempre di andare avanti insomma con la musica. Questo non è lo ska rocksteady, sicuramente non è il mio unico diciamo, la mia unica passione, ma ce ne sono mille altre anche al di fuori del reggae, sicuramente. Lo abbiamo citato sia il singolo che il disco, ci andiamo quindi a sentire dal CD, dall'album Stereo, ci andiamo a sentire proprio la title track, questa è Lady Flavia Stereo. Suono piacevole, lo riesco a percepire da un'auto ferma allo stop e col suo impianto suona rock. Il resto del rumore no, non lo posso sopportare, mi pare impossibile potersi abituare. E poi mi allontano, sento i clacson, le sirene, ogni diavolo di suono. Se ascolti i cellulari quando sono tutti insieme sembra un po' guerre stellari. Come potessi far male, essendo però pronti ad accettare ogni tipo di rumore come fosse naturale. Stereo, il mio stereo, con i suoi passi picchi a sodo, voglio sembri un terremoto e che nell'intero mio quartiere sia ben chiaro che la musica mai verrà a mancare. In città sono costretta a rimanere, devo lavorare, le vacanze ancora non ce l'ho. Per tirarmi un poco su, come metto piede in casa, spingo quel bottone che mi cambia la serata. Bla bla bla bla bla bla bla, c'è la TV che parla e urla che il mio vicino è sordo eppure insonne e non si dorme più. È notte tarda davvero dai, ora il silenzio dovrà calare, ma c'è il solito ignoto che un allarme fa scattare. Perciò il vicinato ora proprio esagerato, guerra io gli ho dichiarato, perché nella totale confusione mi viene rimproverato se al mio stereo il suo volume. Stereo, il mio stereo, voglio metterlo a tacere come potesse far male, essendo però pronti ad accettare ogni tipo di rumore come fosse naturale. Stereo, il mio stereo, coi suoi bassi picchi a sodo, voglio sembri un terremoto. La nostra città è cambiata molto in questo ultimo periodo, complice anche la pandemia sicuramente. Come l'hai vissuto tu quest'ultimo periodo? Come dicevo, questo pezzo è rimasto nel cassetto almeno 2 o 3 anni oramai, appunto sicuramente per causa della pandemia. E certo, questo è stato un periodo molto, molto duro per tutti, ecco, una chiusura musicale totale, almeno per quanto mi riguarda, e anche, vabbè, diverse altre cose da fare, impicci e imbrogli dovuti appunto ai lavori, alla pandemia, alle chiusure, insomma, certo, è stato un periodo difficile per tutti, questo non c'è dubbio, tant'è vero che appunto appena ci siamo appunto aperti di nuovo, c'è stata molta voglia di proporre, di creare e di far uscire quello che già era stato fatto, e alla fine abbiamo fatto anche un video, tanta era la voglia appunto di fare un buon prodotto, qualcosa di fatto bene, qualcosa di di più importante magari di come uno faceva le cose di solito, perché ecco, siamo appena tornati in giro e quindi la voglia era tanta che appunto abbiamo fatto anche questo video con il fotografo documentarista Giorgio Palmera, che è un mio caro amico, e altre figure ovviamente, quindi montatrice, Leida, appunto una cara amica anche, insomma mi sono in realtà rivolta agli amici, che tra l'altro vabbè sono ovviamente dei professionisti in questo caso, per fare il video, perché non solo c'era voglia di fare uscire un qualcosa di buono, ma anche di rivedere persone, no? Care, che magari non è più frequentato né visto per un po' di tempo, e quindi ci siamo presi veramente bene a fare il video, insomma, e a creare questa situazione che andava anche al di là, diciamo, della produzione musicale, no? Quindi chiaramente molte delle figure sono figure professionali, e quindi non è che abbiamo fatto tutto in amicizia, chiaramente, però mi fa piacere dire che ho coinvolto diverse persone a Meccare in questo progetto, e quindi anche per questo ci tengo particolarmente, ecco. Come percepisci, diciamo, anche la scena romana del reggae in questo momento? Che cambiamenti puoi notare, insomma, rispetto al passato? Per quanto riguarda la scena romana, non mi sembra ci siano particolari cambiamenti o diciamo novità particolari, ecco. Diciamo che tutti adesso hanno ripreso con le loro possibilità da fare musica, chi live, insomma, chi col sound system, e tutte quante le situazioni, insomma, la maggior parte più o meno si sono riprese, e questo, insomma, però è chiaro che in questo momento non mi sembra che ci sia un'esplosione di chissà che, ecco, questo no. Molte persone che ricominciano, diciamo, a cercare di vedere che devono fare. Poi fare musica a Roma in particolare è sempre molto complicato, come sappiamo, perché insomma è una città difficile sotto vari punti di vista, e quindi anche quello conta, insomma, no? Però devo dire che nell'ultima estate mi sembra che un po' di cose si sono mosse, almeno per quel che mi piace a me, sicuramente almeno ho notato qualche live in più di anni fa, magari in città, piccoli festival, insomma, diverse realtà che magari, ecco, possono ospitare situazioni musicali live o anche sound system, insomma. Però diciamo che bene o male siamo in ripresa, ecco, quindi fra un po' si vedrà e si potrà capire meglio come siamo messi ad oggi. Facciamo anche un salto indietro nel tempo, ci andiamo a risentire quello che per me forse è la collaborazione più bella di Flavia con la Villa Ada, e quindi Ginko e Lady Flavia, questo è Sogno Intenso. Ogni giorno entra una luce che pare diversa da quella del giorno prima, sensazione che mi fa capire cos'è, che mi spinge avanti per la mia strada. Ogni giorno entra una luce che porta con sé gli umori della giornata, e ripenso a quel sogno intenso che ha colpito la mia vita. Vedo in sogno la terra che appare come un organismo capace di sentire ogni movimento, ogni cosa che accade, come fosse un corpo condannato a soffrire. Io vedo un sogno, la terra mi appare come una donna che mi parla e che mi dice, mi spiega di come è stanca di dover sopportare un'umanità che non è in grado di capire. Per ogni albero abbattuto nessun seme è piantato, ogni luogo conosciuto subito viene inquinato, ogni mare pulito presto viene contaminato e non c'è equilibrio che viene rispettato. Viviamo come parassiti sopra un corpo malato, dominando un mondo artificiale da noi costruito. Elogiamo e difendiamo quello che abbiamo creato, dimenticando quel legame vitale che ci ha consentito di provare un'esperienza così profonda e densa su un pianeta che ci ha dato tutta la sua accoglienza. Ma la nostra conoscenza diventata arroganza ci ha distolto dal significato dell'esistenza. C'è gente che pensa che c'è un dio in trascendenza, ma la terra su cui cammina non gli ha dato mai importanza. Ed ora è in evidenza la sofferenza della grande madre che si trova in decadenza. Vedo in sogno la terra che appare come un organismo capace di sentire ogni movimento, ogni cosa che accade, come fosse un corpo condannato a soffrire. Io vedo in sogno la terra mi appare come una donna che mi parla e che mi dice, mi spiega di come è stanca di dover sopportare un'umanità che non è in grado di capire. Questo pianeta a noi ci ha dato l'ospitalità, ci ha donato la bellezza e la qualità, ci ha fornito l'alimento e soddisfatto necessità. Noi succhiamo le risorse e nulla indietro si dà. Abbiamo perso ormai l'idea della sacralità, così come era diffusa nell'antichità, per cui la terra era come una divinità, misteriosa, abbondante e colma di prosperità. Ma ormai è impossibile, è inevitabile provare a fermare il tempo che scorre veloce e inesorabile. Abbiamo perso il contatto con ciò che ha un valore incalcolabile. È probabile che il danno arrecato sia irreparabile. Sto mondo è inimitabile, non c'è nulla d'umano che con la natura è paragonabile. Nessun mondo è virtuale, la madre terra è sostituibile. Non c'è uomo colpevole che si senta responsabile di quello che ha fatto la terra, di come l'ha resa invivibile. Ogni giorno entra una luce che pare diversa da quella del giorno prima, sensazione che mi fa capire cos'è, cos'è che mi spinge avanti per la mia strada. Ogni giorno entra una luce che porta con sé gli umori della giornata, e ripenso a quel sogno e penso che ha colpito la mia vita. Vedo in sogno la terra mi appare come un organismo capace di sentire ogni movimento, ogni cosa che accade, come fosse un corpo condannato a soffrire. Io vedo un sogno. I brividi, regà, sta canzone, quanto cazzarola è bella. Mi spiega di come è stanca di dover sopportare un'umanità che non è in grado di capire. Io vedo un sogno, la terra mi appare. Vedo un sogno, la terra mi appare. E allora andiamo a chiudere l'intervista ringraziando ancora Lady Flavia con la solita domanda, insomma, che progetti e che sogni nel cassetto hai per questo periodo, per questo 2023? Progetti sì, qualcos'altro c'è, non voglio dire troppo perché ogni volta ne succede uno per cui mi devo fermare, aspettare 3 anni oppure non so, oppure mesi, perché non succedono delle cose incredibili ogni volta, per cui sì, ti posso dire che questo è il primo singolo, insomma, che ho fatto uscire, ci tenevo particolarmente, ma ci sarà anche qualcos'altro, ti ripeto, non voglio dire troppo, anche le sorprese hanno un loro perché, e quindi a breve, mi auguro, magari ci sarà qualche altro annuncio di cui parlare, ecco. E allora grazie Flavia, non mancherà occasione anche di tornare qua a fare qualche annuncio e magari di vederci. Speriamo quindi di risentirci presto con qualche cosa di nuovo, appunto, e voglio ringraziare Fire Upon Babylon per avermi invitato a questa intervista, ovviamente Pirate Radio e trasmissione Port Royal, anch'essa per avermi ospitato. Grazie ragazzi, grazie, ragazzi, ragazzi, e a presto. Presto. Grazie Flavia. Quando si parla di Villa Ada. Faia, faia, faia, faia, faia, faia, faia pom Babylon. Yes, Pupparaina, stai in ascolto di Port Royal su Pirata e Reggae Radio Show. E sempre quando si parla di Villa Ada e delle belle collaborazioni, stavolta soliste. Ora scendo qua, questa è la mia strada, sento musica intorno a me, sono arrivata, solo pochi passi, sono al posto giusto, posso dire che davvero sono a casa, comincia a suonare dentro la mia gola, quella corda che ora non è certo più ti do. Questo è tutto quello che ho. Forza dammene un altro po'. Dai DJ, voglio musica a volontà. Dammi luce in questa realtà. Fai felice la mia città. Voglio musica e libertà. La musica che entra dentro me fa brillare una luce, quella del mio cuore, che se rimane acceso non è mai per caso. Musica, respiro dentro, rido e fuori grido. La musica non è colore né nazione, non è dei discografici e delle persone. Rispetto a chi si scarica la mia canzone, io non guardo mica il business ma la vibrazione. Disprezzo chi fa calcoli mentre compone, non amo che si speculi sulla passione. Sorrido se cantanti che hanno solo un nome, vado avanti e come, senza ispirazione. Basta, te lo dico adesso insieme a Lady Flavia. Dovunque sento musica mi sento a casa. Vorrei vedere gente che balla per strada. Vorrei vedere Roma come la Giamaica. La musica adesso sta qua e nell'aria c'è elettricità. Dammi un do, dammi un mi, dammi un la. Se ti busco fa, mo se va. La musica che entra dentro me viene assorbita nel profondo del mio essere. Poi rimane lì per periodi, per uscire trasformata adesso qui. La musica che entra dentro me fa brillare una luce, quella del mio cuore, che se rimane acceso non è mai per caso. Musica, respiro dentro, rido e fuori grido. Ora scendo qua, questa è la mia strada. Sento musica intorno a me, sono arrivata. Solo pochi passi, sono al posto giusto. Posso dire che davvero sono a casa. E piano piano torniamo a casa. Tra gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti che vi diamo già da segnare: 17 febbraio, Casa della Pace, Testaccio. E per noi è proprio casa. Cominciamo con la selezione di Osh. We can't take it for granted. See? I'm really gonna get too much. I would say not like what I'm doing. Ogni tanto dirò qualcosa. See? Come say? Vi ricordo i prossimi appuntamenti. Tra cui un derby a Perugia il 4 febbraio, ma ne parliamo dopo. Craven that me say them lose him bone. Tiger is a king when sit down pan him tune. No more in a Babylon, Tiger will roam. Cause me no nyami nyami, me no damn licky licky. Me no one, no one come set no poison for me. No one got God, no one got Billy, licky licky. No one got God, no one got Billy. Them say Lord Marcus, them for rise and peace. Listen to the Tiger, talk lyrics with this. No one got God, no one got Billy, yummy yummy. No one got God, no one got Billy. Me not go judge, no one feel where they have. Nala the Tiger man, me love my one. Work and family money, sweat and me brown. Man, mic and fool, me come be mash it up, no. No one got God, no one got Billy. No one got God, no one got Billy. So worry about pair of shoes and me no one. Woman who want good love, you see infantiles. Woman who want good love every night. Right up. Love a girl, oh, Ali, step up. She want a lover, man. Action. That's a bag of mouth. Sweet. Don't be made the girl, them broke out. Action. That's a bag of mouth. Sweet. Don't be made the girl, them broke out. You think you are so fine. Big chat no work, yeah, man, watch the time. Stop playing with my mind. Woman who in a joke when she will want the. Angel, come down. And now I want you home. I tell Jackie, girl, me nah use no stone. Action. At a bag of mouth. Sweet. Don't be made the girl them broke out. Action. At a bag of mouth. Sweet. Don't be made the girl them broke out. I need some action. Tender satisfaction. Mados. My chemistry is flowing. Can you call the chain me? woman like a war them a go. Woman a ball in a agony a allow out. Hardcore loving man, you must be insane. Woman no a no man fi make shit in pain. Sweet loving in the falling rain. Sweet loving a mix of high brain. Action at a bag a mountain. Sweet loving with the girl them broke out. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote. Real, real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. A channel with him, a pretty face and bad character. Then the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you're pretty, your face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now. Have a cozy corner where she jokes and where she jam. She know about Luke Jack and every money man. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that Mr. Flyers go up. And now do you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote. Murder she wrote. Me and my girl was fighting. It happens to be a misunderstanding. I accidentally tumble in she face. And she face black and blue. She run go to the police station. Go tell the police be true. Girl after me feed and me close you. Give you everything you want to come for you. Leave the house can go look money for me and you. When me come back you gone with white blue. Jump in a your eye and me black and blue. Run go to the police go tell them be true. But what the hell the police can do? What the hell the police can do? Roses are red and violets are blue. Sugar is sweet but not sweet as you. Nothing in this world leave what I don't give you. Want to go shopping, money me give you. Want pay your school fee, money me give you. I always make you happy, I will never make you blue. But what the hell the police can do? What the hell the police can do? Ask you if you love me, you say I do. Leave the baby gone out in a night too. And for me, jar me a bed than a school. When you leave me, I don't know what to do. I'll do anything just to comfort you. I will never ever turn my back on you. Just remember that a couple may do. This a love a fear problem be too. But what the hell the police can do? What the hell the police personal. Can do? You not talk about done? You think we come to done? All me have to do is send for the new gun. Anything test dead. We just fly off dozen head. Down the mercy. Kill them. Duck a dill, dill, dill. Sell a boy get killed. Duck a dill, dill, dill. You better sign on the will. Duck a dill, dill, dill. A boy get killed. Duck a dill, dill, dill. Look up in the barrel. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out the tongue. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out them tongue. Where them see me see the hit man a come. See me see me just can't done. See me see the hit man a come. Me say me just can't done them one tie, them one tie. Me come a them funeral, them things say, them a the general, them one tie, to come a them funeral, them things say, them a the general. Enough of them a pose up like a them run the world. Let me tell you something, fi me gun it a me girl. Enough of them a pose like a them run the world. Let me tell you something. And kiss, sleep with that night. If a boy try a thing, me shut out in my sight. You know I and I is dynamite. When me hold my microphone, I strictly truth and rights. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa, take out the tongue. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the oxa, take out the tongue. When you see new style, style and style and style can't spoil. All girls them jump and shuffle for a while. Watch this. Oh, not that. You hear new style, new dance and lick. Fling your hand in the ear, then you rock, then you dip. Move to the drum and make your body kick. Step forward and come up back quick. That's all the new style where the whole place I do. Rap, bogle, dance, some music sweet. Yo, bogle around the place tight and day. So just rap, bogle, dance, some of your tune and play. I'm a sin on it that after no sub bogle stay. She can do it. A proposito de Mr. Tingaling, Mr. Lovaman, Shabarak. Osh ai controlli, tavoli, fondi mic ogni tanto. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, stasera stand alone. Me say me love a fi me virgin girl. Me say me love a fi me virgin girl. Jano ho, me really love her so. Jano ho, me really love her so. Me love fi see her when she walk and pose. Fancy ruffles to match her clothes. Jano ho, be me virgin girl. Jano ho, be me virgin girl. Me love to see ya when I hear full of curl. Anywhere she got people love her in the world. She don't worship diamond, she don't worship pearl. Janho, be me virgin girl. Janho, I be me virgin girl. Bawa do dem, a wa do dem, dem, dem. Bawa do dem, a wa do dem, dem, dem. I'm in a no, oh. I'm in a no, oh, oh. No, no, oh. I'm in a no, oh, oh. Bidi mini bang gang, giddy bang gang, giddy men. Bidi mini bang gang, giddy bang gang, giddy men. Bandit in buckling, giddy men, then giddy men, then. Giddy muckling, giddy men, then giddy men, then. Get you away, ya walk, and you go away. What's up, tell them up? It's a shabba thing. Suckling sing. Yard and foreign kick up. Rock wine. Sing! Ting-a-ling-a-ling, sing. Band silent swing, sing. DJ Ace stuck up in the beer bone redeem, sing. Ting-a-ling-a-ling, sing. Gold bell a ring, sing. Knife and fork a fine for dumpling. E questa la bissamo, ma d'altronde è mixtape Osh Selecta, tutto 19 style anni 90. E giustamente che fai, non ce la metti? Però dai, è stato due giorni fa il compleanno suo, cioè se può sta. Anzi, ieri. Knife and fork a fine for dumpling. Come for some a ranking. Some a ranking disappear with you of another man chin. So them a the dan to the beast, we have the key. Put it down to the key and turn him in a donkey. Them a the dan to the beast, we have the key. Put it down to the key and turn him in a donkey. You see, reggae dance all it comprise of wine. You see, now come to your phone, girl, wine. You want it, you see, if you can wine, you hold your man and interrig. You see, what beer style when you see your mate. You see, later try dress but your mate not ready. You see, your mate look like she a Bugs Bunny. You see, she a cartoon and she no red. Girl, I get the loving, you I get the money. You see, come pop up, cause they're full of quality. Tell a lot of girls, them got crazy. I will be great, but the girls, them like Jamaican girls, hey, ring the alarm, hey, whoa. Ring the alarm, another sound is dying, whoa. Dying, whoa, hey. Some sound like a big jump on. Listen to sound, it's a champion. Rock the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Tato, we beat them all in a row. Donkey want water, but you hold him, Joe. Tato, we beat them all in a row. The cars want water, but hold him, Joe. Ring the alarm, and now the sound is dying. Whoa. Will you see if this rhythm you have a patch? Yellow man, minute. And you say after me, don't minute. me set it. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Zungo, zungo, go, zungo, zen. E vabbè, sapeva in anteprima di chi erano i compleanni, però giustamente mixtape è questo, anni 90, e che fai, non ci metti pure Zungu Zungu Zungu Zeng dei Yellowman? Dilosh, ancora auguri Yellowman. Zungu Zungu Zungu Zeng, jumpy happiness and jumpy joy. You know fi call Yellowman no boy. Lady and then you so take fi tire. Brave like Lord him call him child. You know fi call Yellowman no boy. You know fi call John John no boy. You know fi take iron knife fi boy. Zungu zungu go zungu zeng. Watch it. Zungu zungu go zungu zeng. Catch it. Zungu zungu go zungu zeng. Ka 00119. Ka yellow man make you feel so fine. Me chatter me lyric. Me chatter me na rhyme. Me na eat like me full up a rhyme. Ka yellow man him na commit no crime. Ka zungu zungu go zungu zeng. Zungu zungu go zungu zeng. Hey, kushum pen, kushushushum pen. Hey, kushum pen, kushushushum pen. Think if you have a star, you must have a hit. Yes, Barrington Levy, DJ Osh, o meglio, Osh Selecta, ai controlli, Tauli Pondi Mike, e questa è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirate Radio. Fai a Pom Babylon in session. She didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of froze and I started to run. Here I come, oh. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come. Tie me down, cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. No, you don't love. allora mettiamo una tune di stacco e poi facciamo il primo cambio ai controlli virtuali di questa sera. Esce Osh Selecta, tra pochetto entra DJ Smash. Facciamo un pezzetto ringraziando ancora Red Golden Green Label per la collaborazione, Lady Flavia per la disponibilità, Shiny e la Madhouse Band per aver creato un pezzo così bello. Questo è appunto uno degli owner di Red Golden Green, Bless Up Virtus, Bring Joy. Enjoy Port Royal Pirate Radio. Me aya, turn up the amplifier. Me singing pon a rhythm, see the people require. The taste, the pepper, me lyrical fresher. Performing is a pleasure, so now put me under pressure. Me no local, reaching Steve focus. The mission of me life is 2010. My proposal, dance all is so super. Musical trooper, one eye upon the past and the other to the future. Me aya, turn up the amplifier. Me singing pon a rhythm, see the people require. The taste, the pepper, me lyrical fresher. Performing is a pleasure, so now put me under pressure. Me no local, reaching Steve focus. The mission of me life is 2010. My proposal, dance all is so super. Musical trooper, one eye upon the past and the other to the future. Say me wondering. E penso che si capisce già dalla sigla, già dall'inizio. Questo è lo spezzone di DJ Smash. E lo rimettiamo pure da capo. Bless up Maglio. Ci vediamo sicuramente il 25 aprile a Perugia, tutti insieme, anche con Faia Von Babylon, a festeggiare una bella liberazione al Casale Centova. E sicuramente, se state collegati, ci vediamo anche il fine settimana prima direttamente a Roma. Vi faremo sapere. Intanto vi ricordo 17 febbraio Casa della Pace, 18 febbraio Sally Brown, Tauli, Bibash. A Sally pure il 1 febbraio prima d'orchestra, che se no si offendono. Di piazzoni fate un po' di qui compari i sogni. Agustino Stani. Casi mișcă nu se mari veterani. Ești altul prof, veni și eu. Mi s-a la Ciro Marina. Ca la program, pană, tu faci de prima. Camina, voi, come on, come on. Ne mai decomparimo dentro sa song. Picanti cum s-ar de tecariati. Ești un focul, nu te old school, ragamo fin calabrisi. Chia nu ta no barco, ca tu pintu misi. Vendea cu la cendina, l'aria desbisi. Ficim un pezzi storia cu Kento Simone Isi. Ei, vent'anni in tana, version cu l'amici. Era figliolo, cantava su lupi spisi. Usano tutti i canto posifici. A me vuci e sta vuci sti paesi. La mia maniera, musica libera l'anima da ogni galera. Dire gioca Calabria, porta in alto la bandiera. Militante come nei tempi della pantera. Come speaker tu lo faccio da mattina a sera. Come ora stamanno ogni lirica è una preghiera. Sono black inside anche senza la pelle nera. Ma ormai lo sa, non è una moda passeggera. Sono un massiccio senza collane né ucchera. Innamoratissimo del gruppo Merighera. E ora impara questa strofa intera. Right? Compari Sodi, original rap ad upstyle from Calabria. Si faccio di te c'è l'odi. Qui compari Sodi, lo stile da Calabria. Capato stamore e rabbia che già sa che ti ci sciari. Chiamare i compari da sera alla mattina. Da Marina fino a sera di pressione fate modi. Qui compari Sodi, lo stile da Calabria. Capato stamore e rabbia che già sa che ti ci sciari. Chiamare i compari da sera alla mattina. Da Marina fino a sera. Killer Soundboy e che nessuno se ne offenda. Vengo dal passato che hai scordato, mi remember. Ti porto al futuro, segnalo uno sull'agenda. Se dici Calafro ti rispondono leggenda. Se tocco il compari è matematico che urli. Suono Wake the Town, parecchi sound suonano nulli. Sempre resistente, non the ring, ribampugli. Detto onestamente, qua è evidente che andan pugni. Passano ridim come re, Calabria Norse, dove siete test. DJ Willa, pull up it again. Compari sono di chiuso di Belen. Tutti uniti in una sola gang. Stile che spara e che ti fa bang. Senza pistole con liriche che cavalcano classici e slang tenga. La mattina la sera dalla marina. La sila tenate forte casta gruppo un tsunami arriva. Ti sa pappa saliva con indica più sativa. Mando giù con i compari fino all'alba arriva. I clip di Bibubaden pulsante al blisco muovaden. Sento lo bondi Big Bang e tre figlia c'è non fatene. Merga ti imparti a tutta che entra la sila Antoni Cussus. Le prime danzol delle gente vedranno io come Chopin. Per quante vie lirche mie scrivo moni pure un bel. Te parlo mal po' parlo male ingaggia pur voi. Spalda se certi son si per vista. Sai si fondo guardare, fermo loco muto un tonno in panna. Ti porto un incendio, di qui compari Sodi. Lo stile da Calabria, capato stamore e rabbia. E già sa che ti ci sciari, chiamare i compari. Da sera alla mattina, da Marina fino a sera. Vibrazioni fate fuori, qui compari Sodi. Lo stile da Calabria, capato stamore e rabbia. E già sa che ti ci sciari, chiamare i compari. Da sera alla mattina, da Marina fino a sera. Mentre agiti la collana da banda della Maiana, io resto fino a mañana a fumare la parmigiana. Qui solo compari Sodi. Guaio. Qui solo compari Sodi. Dalla Calabria fino a Trento è un giro, lo ricordo il treno. Con la voce sempre uguale, qui nessuno è mai straniero. Con la macchina col truff, pompa su questo veleno. Svolta questo impianto, sali sull'arcobaleno. Quando scendo coi leoni non basta la minchia dura. La foto fatta col ferro, la notte nella questura. Ne devi mangiare pane, ma pane di San Luca. Compari Sodi, tu scena mu. Ciao, ciao, ciao. Splende il sole qui, brucia questa città. Compare un HP, la mania Grecia è qua. Arrivo diretto da Isola, sei come questa la terra più mitica. Come se fosse con l'Itaca, ma forse più bella e più mistica. Qui gente sballa, ti canta, insieme ci si sciara. Il Dio ti sballa, ti incanta, ti indica la strada. La savana presente, capo rizzuto presente. La Calabria unitevi, ma balla tutta la sua gente. Yo. Come falchi sopra i palchi, piacere il darchi. Più rime in cascina che piante e medicina. Vanna Marchi, dopo Paese strongulite per l'evergreen. O l'incontro in team, cin cin, tu compari Sodi a compari tu. Rime mentre che il proprio compa, no non le ricordo già. Musica in mezzo alla gente è prepotente, tu impara a dirle già. Da Ciro Marina, raga ma fina, burtellanti già prima mattina. Mi presento in slero from compari Sodi. Porto lo sound hip hop da province e cugioni. Rappa reggae in solcina per tutti questi figlioli. Lo divertimento assicurato, questi buoni guaglioni. Guaglioni, guaglioni. Yeah. Sweet reggae version. All of your problems make you feel nice, that I'm certain. Every one of them won't. trouble, them one struggle do ya in a life. So oh, what's a jive, you see everyone just full of vibes. The girl them a wine and a bubble and a dance in a motion. Look how the crew them a rock to the beat and a spill like the ocean. Vibe they gone clear, smoke a feel here, love the smell of spice. So oh, what's a jive, you see everyone just full of vibes. In a me league, them not in a me league. Enough of them a chat and them can't touch me sleep. Boom! In a me league, them not in a me league. Around the world, I mean the people them need. Yes, in a me league, them not in a me league. Woman, when me throw, she is so complete. Boom! In a me league, them not in a me league. Blessing it a flow to how much people me feel. A friend in need is a friend indeed. If you throw to the bone, to the core, to the queen. My pun negativity and trample the seed. Throw me positive, them not want me to leave. Show the youth the way I make the youth them believe. Make something out of life, out of what you achieve. Show your mother love, take care of your kids. Show your woman love, angle your kids. Music a come from yarn, yeah. We rock the Caribbean and tear down broad, yeah. Man a pretty good, the rest of them a mongrel dog, yeah. They wanna sell out them straight, but me know them a fraud. Sleep up with every backyard, huh? Music keep you rocking. Local and the top charts, them we attacking. Tell the Babylon, them fi start get packing. Cause none of them boy, they can't do it nothing. Me tell you this, them know who are who. Drop in who fi frightened and that the truth. Big up who where they are and who pass through. Reggae a go out at the world like curfew. Cause now I'm stronger. Song from the get-go. We hold on tight, we not let go. Some struggling youth from the get-go. From Jamaica, it's straight to Soweto. All my Nigerian and who say yes, so man a Jamaican, so what? And so me lyrics in show like a Geico. Me a talk like a psycho. No, them can't hold I no more. No more sleeping out a door. Tell them can't hold I no more. No more sleeping on the floor. It's all about love. This lion, the and black, he gray. I want you to be your best. Sing it all for me, please. I need your love in the morning. Baby, girl, she says she love me so. I need your love in the evening too. Me never know she would have raped me so. I love you, darling, and I hope you feel the same way too. Me love girl, you know my love's so true. That's all I ask from you. More than all the diamonds and the rubies and the pearls. Baby girl, you are my princess Me need you by my side, you are the apple of my eyes. Don't you know your love is priceless, so priceless. By the way you make me feel, girl, I know this love is real. I belong to you and you belong to me. It is so clear to see, you are the one for me. That is how things gotta be. I need your love in the morning. Baby girl, she says she loves me so. I need your love in the evening. I love you, darling, and I hope you feel the same way too. Me love you, girl, you know my love's so true. That's all I ask from you. Every man I show, I'm the best. So get up, you're getting on this. One more sick of them for yeah. Hey, in questo modo il mento pretesto per coltivare l'anima. Hey, che mi conosce sa che seguo la mia strada. Sbaglio nella, io vivo, vada come vada. La vita è troppo bella per vederla sprofondare in una lacrima. Hey, mille paranoie, mille mille limiti, limiti, litighi per piccoli ridicoli con i tuoi simili. Belle cose incredibili ti danno stimoli, ma non le vedi, non credi che siano possibili. Conti lividi e brividi e pensi che hai raggiunto l'età, sapendo che il passato è andato e non tornerà. Quanta gente viene e poi va, non apprezza quello che ha. Mi vesto che tanto che non esco, così cambio un po' aria. E in questo modo invento un pretesto per coltivare l'anima. Chi mi conosce sa che seguo la mia strada. Sbaglio, deraglio, vivo, vada come vada. La vita è troppo bella per vederla da lontano mentre evapora. Mi vesto che tanto che non esco, così cambio un po' aria. E in questo modo invento un pretesto per coltivare l'anima. Conosce, sa che seguo la mia strada. Sbaglio, deraglio, vivo, vada come vada. You know Jamaica, the land we love so much, but sometimes I'm at home scared. Yo. Ah, yeah. Na na na na na na na. Come on, come on. Why, Jermaine? Check this. Hello there, Jamaica, how you doing? I see you're not doing fine. You're fed up of the war and crime. Hello there, Jamaica, why you crying? I see tears in your eyes, shedding for their innocent lives. If we don't stop the killing and increase the peace, the only thing gonna left standing is the land and the sea. What's wrong with your people? Mankind goes unscrupulous people doing unscrupulous deeds. They don't even care if their actions cease. The garrison is where you'll find exactly what poverty will do to the mind. So we always are looking on the road. And we are put it to be poor is a crime. So our life is on the line. Don't you know? Talking about revolution. E quante rivoluzioni ci vorrebbero davvero nel mondo? A partire da noi stessi, eh? Let's up, Lorenzo. You know, sweet Jamaica, it's not what it used to be. But we gotta take a stand and bring it back to what it was. And I'm saying, the land that we love so much. Jamaica, how you doing? I see you're not doing fine. Fed up of the war and crime. Hello there, Jamaica, why you crying? I see tears in your eyes, shedding for the innocent life. Don't you know? Psalms 35 keep us alive. Every night before I sleep, I take a little glance at your window. And when I close my eyes and lay under the sheets, I can hear your voice when the wind blows. And I can call on you when I need you. You're by my side, I can tell, I can feel you. I wonder why I still can't see your face. But with my heart and all my faith, I move mountains, cause you're my miracle. And with these words, to you I pray, you're my guideline and you're my hero. And I can call on you when I need you. You're by my side, I can tell, I can feel you. I wonder why I still can't see your face. I'm told again, tell police officers and soldier men, say we won't lock the streets and road again. all wicked. I am proud again. Then and only then take control of them. Then police officers and soldier men. Say we want try with streets and road again. All wicked. I am proud again. Then and only then. So them give we flag, them give we anthem. Not even give we half a way we need to execute them, plan them. So we still dependent upon them. Them just a wait for we to come back and long out we empty hand them. You talk the truth and you get condemned. Walter Rodney speak a bit, we own a government, go ban him. Them want to block, we overstanding. While we do the wrong thing, that's why you hear me song sing. Take control of them. Tell police officers and soldier men. Say we want lock we streets and road again. All we head high and broad again. Then I know we get you when I need you. You're by my side, I can tell, I can feel ya. I wonder why I give thanks for your good grace. Pray, pray, pray, pray, pray, pray. I'ma pray, pray, pray, pray, pray. I'ma pray, pray, pray, pray, pray. I'ma pray to you, to you. I'ma pray, pray, pray, pray, pray. I'ma pray, I'ma pray, pray, pray, pray, pray. I'ma pray, pray, pray, pray, pray. I'ma pray to you. Tutte le parole e mi affido a te, sì mi affido a te, yeah. Mentre fuori è freddo e piove, sento che stai vicina a me. Sposto via tutte le persone e viaggio con te, sì viaggio con te, yeah. Sì che io so che sei sempre vicina a me. La mente viaggia e tutto è possibile. Mi metti in gioia e voglia di vivere. Niente di violenza più in questo mondo facile. Tutto svanisce ma tu rimani sempre. Accanto con te sogno te problemi si perda. Accunta vita in un po' che calura cerca. C'è stanco molto ancora cave tante fino a chi mora lotterà. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via tutte le parole e mi affido a te, sì mi affido a te, yeah. Mentre fuori è freddo e piove, sento che stai vicina. Musica e vita, musica e gioia, musica e amore. In ogni momento riempie il cuore delle persone. Quando stai male solo lei ti sa amare. Quando stai bene in armonia con il mondo intero lei ti fa stare. Scandisci la mia vita a ritmo lento. Mi sento perso quando so che non ci sei. Mi perdo tra le note del tuo mondo e canto la mia gioia assieme a lei. Assieme a lei è una forza che va sola, senza il bisogno di alcuna parola. Musica liberami da ogni paura. È un brivido che respira dentro, l'essenza della mia vita. Musica, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via tutte le parole, mi affido a te, sì mi affido a te, yeah. Mentre fuori è freddo e piove, sento che stai vicina a me. Sposto via tutto. Quanto è adatta stasera da sto pezzo. Fuori freddo e piove, ma comunque ci avete Port Royal, Pirate Radio, tutti i mercoledì 21-23, DJ Smash ai controlli, Giovanni chi la gatta la voce, guarda, bombo cinque. Yeah man, is a double champion. The fire upon Babylon. Me no know a better sound. Article sound. Round selector. Take her fire upon Babylon, naughty babe. Watch come around, we tell her have no rest. Take her. When you hear this, that play fire upon Babylon. Che non si sa che c'è un debole per Virtus, eh? Però almeno sono tutte canzoni diverse. When you hear this that played fire upon Babylon, mash it up in every place. Mash it up. When you know this your sound make you dance, oh boy, me I tell you why. Hey, come follow me no man now, follow me no man now, follow me no. Hey, me tell you no follow me upon the bush. Remember what the champion Italy we come from. We fire upon Babylon. Hush make me feel like a judge, a soldier. What tell you make me feel like a Harriman soldier. Move your body. next to the shoulder. Fire from Babylon, not a rolling sound. Us play that tune, cause the girl them a bubble. Article sound, them a kill us some bird. Take care, fire from Babylon, not the base. Watch come around, no tell her have no rest. Take care, when you hear this that play. Fire from Babylon, mush it up in every place. Take care, fire from Babylon, not the base. Click clack, blow your bed. Government fingers and tic tac toes in it. And while they're working on the X's and O's, I'm living eye and eye like a Mr. Kamosi. No surprise when they're sending foes to me. Opposite are when plain clothes approaching me. Follow the rules is what they propose to me. Selling their souls for what is old, you see. Nothing is old, nothing is promised. Never know the government would have run up in a them garrison. Without no sorry, without excuse. Soldier money na them lorry, everybody gets abused. And everybody have them views now. The media is on, so know where you get your news from. And the blood up on them shoes now. When them walk in the trace, look them hard in them face and say, Kingston, alongside Chronic. Our Chronic Sado one them. Proto J and Kabaka go calm them. Hey. I Jaja gravel, I no stumble, no baffle. I ya Silasi soda man. I am strong and be happy, but no laugh with nobody. I ya Silasi soda. Up in a me khaki suit, you not go find me a gilafi. Peace soup in a war with me troops in a war. None of them can take Rastafi claffy. I me no worry, when me a worry myself. Me see a fiend a jawarry a shelter. Stand firm like Iraq a Gibraltar. None of them not go if me see jawarry a falter. Charge a gravel, I know. Stumble no baffle, I a see last, see so. So leave me be. Me no itch up on me lad I watch TV screens. Me deh on the front line and now this me come find. Say I'm enough to take responsibility. Me me actions, me objectives and me nouns too. Make a wrong step and see how quick them denounce you. But I still a see I federal. Me happy sign separal means for me it's them surround you. All Ethiopia me happy deh. Move fast like Bobo on a Saturday. Nappy head, khaki suit, happy patchy leg. This ya Apache, ya inborn as a natty dress. Charge ya gravel, I no stumble, no baffle. I ya Silasi soda man. I am strong and me happy, but no laugh with nobody. 2 minuti ancora per DJ Smash. Poi 10 minuti me li faccio live. Preparate. La regia arrivano segnali di paura. From the land of freedom fighters, readers, writers, I lead the king shall guide us. So. Jaja gravel, I no stumble, no baffle, I ya. Sila si soja man. I am strong and be happy, but no laugh with nobody, I ya. Sila si soja man. Yo, boy, Rastafari chapose, it's a call of duty. I'm salute, stand up for what's right, excuse me. Have you thinking faster? You're right, I'm the master. You must be stupid to think that I'm a lamb to the slaughter. Hold up, push on, wickedness get ambush. And I know you're evil, you didn't spend the time to reach a book. And hear them a plop of them psalms, tell them a fight for me laugh. So I'm singing on my head, I love it, I'm in love. Jaja gravel, I no stumble, no baffle, I see lassi soja man. Allora cominciamo con i saluti, poi una decina di minuti di specialini, un altro saluto alla fine e passa la paura. Grazie a tutte e a tutti i massicci all'ascolto, questa è Port Royal tutti i mercoledì, domani sera Reggae Mania non andrà in onda ma giovedì prossimo puntatone con i Ratatouille live. Noi intanto continuiamo così. Pick up fire from Babylon. Otello, Smash, Hilario, Osh. Che stava da credere, eh? Dal litorale, Rough Note famiglia, e piglia fuoco sta dance. È tutto a posto, vai a pombabi a suonare il posto. È tutto a posto, fai a pombabi in seletta rapida. Uccide Sambo e a son di ciul di lapida decapita. Io di alto ormai ci abita. I lie upon the control, boom, occhi occhi capita. È una sconfitta matematica, non rosicare. Otello strilla come erotica, non puoi sfidare. E tu fai ciacciazzi, puoi solo parlare. Ma il dubbio poi che qualcuno ti stia ascoltare. Se suona Osh, la massi urla, oh my gosh. È legalizing come tempi Peter Tosh. Se pensi ancora di poter competere, arriva Smash e ti fa smettere di poterlo credere. È tutto a posto, fai a pombabi la suona nel posto. È tutto a posto, fai a sei. È tutto a posto, fai a pombabi la suona nel posto. È sempre tutto a posto quando fai a pombabile un suono nel posto. Ma poi ogni tanto vi trovate pure tavoli. Per esempio dal 22 al 25 Bergamo Reggae Sunfest, dal 29 al 2 di luglio, e quindi 29 giugno, 2 luglio Maso Mandrea Wall of Festival. E all'improvviso torna de moda pure questo. Senti un po'. Bless up Lucio e a tutta l'associazione One Love all'ascolto. Mo se va, se va, se va, se va, se va. Bello Otello, Brusco sta qui, mo te lo sa di namo namo. Bella tutta la Bergamo Reggae Massive. Easy, brucia Babilonia quando Otello suona. Namo namo, run the rhythm. Lo stamo. Sì, Ciudello, non si sbagliamo. A Bergamo, al One Love. Namo namo. Dopo il cappuccino te lo fuma marijuana. Poi nella dancehall, bim, vai con l'altra canna. Vedi che vale sempre la pena tenersi le cose belle. Che combinato in giro gli chiede la mamma. Dopo tutti all'università con molta calma. C'è chi ce l'ha fatta ma anche Otello è in gamba. Ora si lavora sì ma non ci si affanna. Corre da quel tempo per gli amici della gancia. Al cinema Top Gun fumavo calabrese perché ancora non c'era skunk. Compravo libanesi a meno dei 2 scudi al grammo. Morivo dalla voglia del sentirmi sciabaranx. Bam bele bam bam giovedì alle dance. Ho preso il microfono e sono uscito dall'infanzia. Anche se non esce mai di se fuma la ganja, passami lo spliff come Peter Pan. Bam bele bam bam non in vecchia Otello fuma l'erba della giovinezza. Ba ba ba ba ba ba ba non in vecchia mai ti fuma ganja. Brucia Babilonia, mo se va. Siamo qua e chiedo un piccolo timeout a sto grigiore per vedere com'è fuori stamattina se c'è il sole. Oggi cerco un tocco di colore per la fantasia che ogni giorno in questo mondo muore. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è un sound della sua strada che è fatta di sogni e di Deo Otello again. Qualsiasi cosa accada a me, vada come vada, c'è Otello e la sua strada che è fatta di sogni. Viene da Roma, Roma che non la sa, tutta l'Italia sa guasta, una dance sola al giorno non basta, direi che piace come la pasta. Viene da Roma, Roma, mo è festa, ah, ah. La guardia ormai non la resta, è tutto a posto, ha una richiesta, vuole Bergamo coi dreadlock in testa. La gente mi saluta, con go shot come a Fallucia, sta chiù lo sai che brucia come il pane con l'anducia. A Roma, Palermo, Bergamo lo sai pure a Perugia, donnamo, andiamo, c'è un sound e una B&B che se strucia. Donnamo, confistamo, non se spaventamo, chicco tu c'è il pezzo, ma lui c'ha le bombe a mano. Giorno dopo giorno, adesso guarda quanti siamo, e mo voto Otello come premier italiano. Ma pure no, ma chi me lo fa fa? Vi ricordo piuttosto Bergamo Reggae Sunfest 22 giugno, 25 giugno e poi dal 28, 29, 30, 1 e 2 il One Love Festival Maso Mandrea. Andiamo avanti così, ultime giugno per noi e poi ci vediamo, anzi ci sentiamo mercoledì prossimo. Babylon, then fire from up Babylon. Too good, good. Fire from up Babylon. Bam, bam. Town, fire upon Babylon, champion sound. Big, big drone, them around from the start. Ooh, them bad. From the north to the south, to the east, to the west. Fire upon Babylon, and the best. Rap upon, pom, pom, pom. Fire upon Babylon, and the real champion. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang. Oh, gosh. I hit the ground. Bang, bang. It's all about fire upon Babylon. Bang, bang. Ba ba ba ba ba ding dong dong. He shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That's right. That awesome. Bang bang, that baby shot me down. In a the club, damn bad. In a festival, damn bad. See all the people, damn mad. Fire upon Babylon, oh Lord, oh Lord, oh Lord. All the people, damn scream, oh Lord. Ooh la la la, one fire upon Babylon in the area. Bang, bang. It's all about fire upon Babylon. Bang, bang. Sierra Maestra, bang, bang. From Roma Town. Oh gosh, bang, bang. We got Towele, Ash, Smash, Hilario. Oh gosh, bang, bang. Hit the ground. That awful sound. Bang, bang. rabba ba ba bam bam bam bang bang, he shot you down. Bang bang, hit the ground. Bang bang, oh Lord. Bang bang, it's rough. Bang bang, we got fire from Babylon sound. Bang bang, I hit the ground. Bang bang. E allora chiudiamo con l'ultimo special, che io ci chiuderei praticamente tutte le sere, serate, trasmissioni, tutto quanto. Ci sentiamo mercoledì prossimo, questo era Port Royal, Fire on Babylon 21-23, Pirate Radio, Bless Up Yourself e buonanotte a tutte e a tutti. From Earth Beats Movement Style alongside Taweli, Fire upon Babylon. Hey. Sunflowers blossom in searching for a new life. Taweli gives me the beat while music shapes. Fire upon Babylon, my lullaby. A teller gives me a league goodbye. Here and now, there's a pure light within your own. And you can't stop us now, you can't bring us down. All your poisoned arrow, don't hurt our road. Tower Lee is the master of the Flavia della Villa da Posse, a Fire upon Babylon e a te Otello ovviamente, e un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Port Royal su Pirate Radio. E con la voce di Flavia, buonanotte a tutti.